piccoli problemi di cuore e ale ale ale ho ho. Che bella notizia! Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete su Rock FM. Ragazzi, che bello! Ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. Ore 7:55 secondi. Eccola qui la colazione diversa. Una buona giornata dalla voce dell'Ariele. In regia anche quest'oggi il buon Spadino. Roberto Fricantoni sarà il prezzemolo di questo. Il prezzemolo a colazione, che schifetto. Sarà il cacao, via. Cos'altro si può mettere? Sarà la cannella. E ho detto cannella, Sul vostro cappuccino di questa mattina. Venerdì 14 settembre. Decima puntata di Pane, Burro e Rock'n'Roll, detta anche PBR, così per farla slang, per farla giovane. Da una Milano ancora buietta, ecco il buongiorno. Pane, burro e rock'n'roll, vi accompagniamo fino alle 9. La tua colazione roll, sempre se voi restate su Rock FM, no? Pane, burro e rock'n'roll, la miglior sigla attualmente in circolazione, grazie agli Anduri. It very good indeed. Se cerchi una radio che fa rockeggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E andiamo allora a cominciare questa che in realtà può essere anche letta come la 80ª puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Per gli amanti della cabala, un doppio 8 per iniziare. Avremo tanta buona musica per tenervi compagnia, oggi più in forma di ieri. Chiedo ancora scusa se la puntata di ieri è stata un po' raffazzonata, ma era colpa delle ore, delle poche ore di sonno. Oggi invece siamo belli freschi. Sono reduce anche dalla visione di un bellissimo film che consiglio a tutti, così di prima mattina, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, che ieri sera mi ha tenuto compagnia. Gran bel film con, tra l'altro, anche una meravigliosa colonna sonora. A proposito di meravigliosa colonna sonora, Spadino, guarda che ti schiaccio lo... Guarda, quando strizzo l'occhietto vuol dire... hai capito, bravo. Che parte il brano. Le barbe più lunghe del rock and roll si chiamano ZZ Top, Cheap Sunglasses. You wake up in the morning and the light is hurt your head. The first thing you do when you get up out of bed is hit that streets a running and try to... Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Now what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Shades of cheap sunglasses. Se la sfumano da soli, eh? Questa è classe, ragazzi. Questo è gran stile. ZZ Top, Cheap Sunglasses. Tagliata un po' così, Spadino, eh? Me l'hai tranciata alla vecchia, come si suol dire. Stile, beh, sì. Quando partono i brani musicali nella colazione di pane, burro e rock and roll, c'è sempre un occhio di riguardo alla vostra condizione di vita attuale, i molti che stanno iniziando ad affrontare la giornata e i pochi, invece, fortunati che la stanno fortunati o sfortunati, dipende cosa avete fatto, che la vanno a terminare orora. Per entrambi la miglior colazione è servita in questo momento sull'etere, pane, burro e rock and roll. Oggi puntiamo alti, sì, oggi puntiamo ad ascolti altissimi, il secondo venerdì dalla ripresa. Ovviamente per catturare la vostra attenzione sfrutteremo quel giocoliere delle parole che è Roberto Fricantoni. Ieri accennavo per la prima volta a questo concerto che ci vedrà insieme, o meglio, a questo concerto degli Schiantos che si terrà, quest'oggi ve lo riesco anche a dire perché ho l'agenda accesa, si terrà il 30 di settembre, quindi tra un paio di settimane, domenica 30 settembre, a Cascina Molue qui a Milano. Dal vivo gli Schiantos e ad aprire e terminare la serata gli amici di Cascina Molue volevano anche lo zampino di Rock FM e hanno ben visto di chiamare me. Quindi in occasione del 30 settembre preparatevi perché ci sarà fondamentalmente la prima festa ufficiale di pane, burro e rock and roll. Ci sono io, c'è Freak, c'è Spadino, c'è Mister Trombetta. Mancate solo voi, iniziate a segnarvelo sulla vostra agenda. E così rispondo anche a Maurizio che mi chiedeva appunto di questo concerto via mail. Voi vi direte, ma quale mail? Beh, ma ve la dico subito: ariel@radiorockfm.com. Questa è la casella di posta elettronica, già che ci sono. Vi dico anche che al 335-100-7777 attenderemo anche quest'oggi i vostri messaggi da telefonino piccolo mobile, quel marchingegno infernale che ormai tutti quanti possedete. Se ce l'avete già acceso, scriveteci. Avete qualche domanda, risponderemo. Non ci credete? Guardate, rispondo subito a un amico, Davide dal bar, che chiedeva se Arnold Lane, la canzone che ha chiuso il programma che ci ha preceduto, è dei Pink Floyd. Ma certo, mio caro, hai azzeccato, primissimo periodo. Proseguiamo dolci come lo zucchero. Ah, everybody's talking. Benvenuti in un gigantesco spot. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Ma che falsetto è, Harry? Ma come stai messo? Harry Nilsson, quel vecchio marpione di Harry Nilsson e la sua Everybody's Talking. Vi prendiamo con la dolcezza questa mattina alle 7:13 minuti primi. Allora, ho lanciato per la prima volta appunto la notizia di questa prima festa ufficiale di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Vedo con piacere che vi SMS già vi scrivete. Io ci sarò, dice qualcuno. Tra l'altro è bello, visto che è domenica sera, sarà bellissimo. Perché se lo dico a voi che siete già svegli adesso, vuol dire che avremo tutti un po' lo stesso problema, no? Si fa festa e poi dopo ci si sveglia presto. Beh, ma noi rocker ci abbiamo sotto, eh? Hai capito cosa ci abbiamo sotto? Si intuiva? Bene. A proposito di gente che passa la notte insonne e poi dopo è pronto a fiondarsi in fabbrica, un saluto specifico, particolare, a questo amico decisamente rock. Gruppo d'ascolto di quelli che il liutaio gli ha fatto una strato che suona da sola e che hanno fatto l'alba a provarla. E quindi è un casino andare in fabbrica. Tieni duro, fratello. Pane, burro e rock and roll. Pensa soltanto che hai una strato che suona da sola. La tua colazione rock. Per chi non lo sapesse, la strato è una chitarra, no? Ogni giorno. Quella di Clapton, per intenderci. Rock and roll. E voi a che gruppo d'ascolto appartenete? Un po' di puntate che stiamo scoprendo dei veri e propri geni all'ascolto di Pane, burro e rock and roll, cosa che ci inorgoglisce parecchio. A tutti voi e anche a quegli altri, 515. Loro sono gli Who. Sempre un piacere servire gli Who. Why should I care? Why should I care? Those are 15 Grazie a Dio è venerdì, direbbero gli americani, e invece io dico grazie a Dio è Fricantoni, non ma... il giorno, ma lei. Buona giornata. Grazie, sono lusingatissimo e ricambio senz'altro gli auguri, non so se sono all'altezza di questi complimenti, ma ricambio di cuore e saluto lei tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi ne dica è all'altezza, DJ Aria. Maestro, ne è all'altezza anche volendo di gustare insieme a noi una colazione all'insegna dell'almanacco, perché no, come da consuetudine. Ma rimaniamo fedeli a queste formule che danno sicurezza e tranquillizzano. Sa cosa le dico? Oggi è il 14 di settembre, ma sarebbe potuto non esserlo. Ah, forse riesco a capirla. Coniugando tra l'altro i verbi anche in maniera decisamente precisa. Ma infatti, forse riesco a capirla perché lei intende riferirsi a quell'episodio. Intendo, sì. Lei si intende di quell'episodio del 1752 che riguarda l'impero britannico, sì. Il quale adottò il calendario gregoriano, certo. Saltando pari pari, così, con nonchalance, 11 giorni. Quindi, cioè, era il 2 di settembre, divenne il 14. Anzi, era il 2 di settembre, il giorno dopo fu il 14. Sì, sì. 15, oggi sarebbe dovuto essere il 3. Sì, in però un certo qual modo. Però nel 752. Sì, insomma, mi sta già venendo il mal di testa, passerei alla notizia successiva. Insomma, ci si adegua, no? Ci si adattano un attimo i conti. Se i conti non tornano, li si fa tornare a forza. Passiamo a pie pari al 1959, sempre ovviamente il 14 di settembre. Ricordando a tutti che la sonda sovietica Luna 2, sì, si schiantò sulla Luna, diventando, aia, per la Luna soprattutto, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Di fatto diventò il primo manufatto, le piace questo molto gioco di parole un po' scemo, a schiantarsi sulla Luna. Quindi... E sarà ancora là, è sporcizia, sì. Nessuno è andato a riprenderla. Infatti, io credo che poi il governo lunare abbia tutti i diritti di pretendere anche un risarcimento. E mentre attendiamo un risarcimento, passiamo al 1975. Laddove... la prima santa statunitense dal nome Elizabeth Ann Seton, Seton, venne canonizzata da Papa Paolo VI. Prima santa statunitense. 1975, fino ad allora... Non si registrano santi negli Stati Uniti. Sa che chiudo io l'almanacco di quest'oggi ricordando un bel accadimento musicale datato 14 settembre, perché nel 1993 uscì In Utero l'ultimo album in studio dei Nirvana. Gran bel disco. Accidenti, un disco che ha rivoluzionato la musica internazionale. Può dirlo forte. Un disco che ha rivoluzionato la musica internazionale. Sapevo che l'avrebbe fatto. E beh, che c'è? When lights go down, I see no reason. burro e rock and roll ed è subito amore. When lights go down. Guarda, caro Joe, permettimi di dire che a quest'ora la luce al massimo si alza, si accende, non si spegne, ma per, con licenza poetica, te lo lasciamo dire, gli Europe di Kerry nella diretta di quest'oggi, 7:27 minuti primi. Se ci state ascoltando via radio, mentre se state ascoltando in streaming nei programmi in archivio di Pane, Burro e Rock and Roll, sarà un'altra ora che non possiamo sapere che ora è, ma buona giornata anche a te, caro amico o cara amica, che ti sei messo ad ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll un po' più tardi. Questo era per segnalare, come ogni giorno, l'archivio sul sito di Rock FM. Ringrazio Sergio che mi scrive sempre al 335-100-7777. A inizio puntata vi ho consigliato Le avventure acquatiche di Steve Zissou, film che mi è piaciuto particolarmente. E Sergio mi scrive: ma ti offendi se ti dico che secondo me quel film è una cacata? Non preoccuparti, ti voglio bene lo stesso. Caro Sergio, hai fatto molto bene, perché il mondo è bello perché è vario. Citazione che ci stava decisamente a pennello. La puntata di oggi la vorrei dedicare all'autopromozione. Vi ho ricordato questa prima serata dedicata a Pane, Burro e Rock and Roll, che vi ricorderò poi anche nelle prossime puntate, a proposito della connection tra l'Ariele, colui che vi sta parlando, e quel folle di Roberto Fricantoni. Vi segnalo un video, ho messo un link anche sul mio blog che trovate o tramite il sito della radio oppure direttamente su amore.net, il sito della mia band, un video con le immagini live dell'esibizione di Arezzo Wave, non la scorsa edizione, quella prima, sullo Psycho Stage, quando era ancora ad Arezzo, esibizione della mia band Pay, dove suoniamo Eptadone con il maestro Roberto Fricantoni. Andate a darci un'occhiata, molto carino. Così, freak senza offesa, ma la nuova generazione del rock d'avanguardia si scontra con la vecchia generazione del rock d'avanguardia. La vecchia siamo noi, tu sei la nuova, effettivamente, hai veramente ragione. 7:29 minuti primi, brevissima pausa per noi e poi si canta tutti insieme Led Sunshine. Vedo che fate sì con la testa e allora stiamo precisi. Adesso Gigi, per farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Pane, burro e rock and roll. Viva il caffè! Viva. È sicuro che è quello buono? Più lo mandi giù e più ti tira su. Io ti tiro, ti